amore, resterò vicina a te per tutta la vita. Con te voglio credere, sognar per tutta la vita, perché sei tu che dai speranza al mio domani. Col tuo sorriso, la tua voce, le tue mani, perché io tremo quando un poco t'allontani. Credimi, sei tutto per me, amore. Resterò vicina a te per tutta la vita, perché solo te io voglio amare per tutta la vita. Nei baci tuoi c'è un'emozione senza fine, un desiderio che si scioglie nelle vene. Sì, per la vita resterò. Resterò con te. Per la vita resterò.